L'esistenza di ogni essere umano è caratterizzata da certezze e incertezze. Mentre le incertezze sono utili ma non indispensabili, le certezze invece sono sia utili che indispensabili. Senza certezze non si potrebbe fare nulla, non esisterebbe nessun rapporto con il mondo fisico e con il prossimo. Se non mi fidassi della genuinità del cibo che mangio morirei di fame, se non mi fidassi del prossimo, non avrei nessuna relazione di amicizia con esso. Per quanto venga messo poco in enfasi, la parola di Dio ci è stata data perché noi avessimo delle certezze. Già di per sé questo aspetto della parola di Dio è veramente una benedizione in un mondo dove tutto è relativo e viene messo in discussione. Però, occorre fare attenzione. La parola di Dio non offre certezze per ogni cosa, non garantisce la salute e il benessere a tutti, non offre certezze in campo affettivo, ma garantisce qualcosa che va al di là di ogni aspettativa. Offre la certezza della salvezza, cioè di un futuro stupendamente meraviglioso ed inimmaginabile, e la certezza della perdizione, cioè un futuro drammaticamente doloroso e angoscioso. Poiché nella maggior parte delle religioni, come del resto il cristianesimo, a chi crede si presenta con un certo orgoglio la certezza di un futuro incantevole, è opportuno parlare allora della certezza della perdizione, così come viene espressa nella parola di Dio. Lo scopo di queste riflessioni non è di creare del terrore in chi crede in un assoluto, ma di creare una certezza, più che salutare. Dire a nostro figlio che andare forte in motorino è pericoloso è una cosa, ma se riusciamo a convincerlo, e quindi dargli la certezza, che andare forte in motorino è veramente pericoloso, allora abbiamo ottenuto lo scopo del nostro avvertimento. La certezza che ha acquisita sarà una ragione per evitare di farsi del male. Non è detto che chi ha delle certezze le metta in pratica, ma almeno ha più possibilità di evitare inutili dolori. Sono solo le certezze che sono sia utili che indispensabili. Così, chi arriva a conoscere la certezza della perdizione può anche ignorare un simile pericolo. Ma se tale problematica gli sta a cuore, allora egli ha la possibilità di evitare questa dannata sorte. Parlare della certezza della perdizione è il gesto di un amico che con tutto il cuore desidera avvertire colui che ama, colui a cui sta a cuore, colui a cui importa. Se trovo un tratto di strada ghiacciata, potrò anche non dirlo ai miei vicini, ma lo dirò senza indugio ai miei familiari. Tutte le religioni trattano il problema del peccato, ma lasciano da parte l'intervento di Dio, e giungono perciò ad una conclusione a buon mercato. In essa viene risparmiato all'uomo l'umiliazione finale di ricevere Cristo quale Salvatore. Il messaggio del Vangelo richiede all'uomo di spogliarsi di ogni merito e virtù, esige che comprenda che la contribuzione alla sua salvezza sia proprio nulla. O Cristo lo salva, o la perdizione è certa. Una simile conclusione è sgradevole perché a nessuno piace pensare che la salvezza dipenda solo dalla misericordia di Dio. Tutti preferiremmo pensare di esserci guadagnata la salvezza per mezzo di una conquista personale. Proprio per questo innato desiderio che vi è nel cuore corrotto dell'uomo, è impossibile per ognuno di noi accettare il messaggio della salvezza senza realizzare un vero sconvolgimento di pensiero e di cuore. Causa una perversione interiore che corrompe il nostro giudizio, noi pensiamo di essere in qualche modo accettevoli a Dio, riteniamo di essere adatti per il paradiso, mentre ogni giorno che passa ci troviamo sempre più preparati per l'inferno. La nostra colpa più grande non consiste tanto nei peccati, ma nel ribellarci contro Dio. Peccare non significa solo disubbidire a ciò che Dio ha detto, ma agire contro ciò che Dio è, contro il suo stesso essere. Peccare significa profanare la sua santità, violare la sua giustizia, disprezzare la sua volontà, opporsi alla sua sovranità, contrastare il suo piano, negare la sua sufficienza, sfidare la sua pazienza, beffarsi della sua onniscienza e onnipotenza, disprezzare la sua bontà, abusare del suo amore, sputare in faccia la sua grazia. Dio ci fa sapere che, ai suoi occhi santi, il nostro peccato è come il vomito del cane. come il fango in cui si rotola il maiale, come l'infezione nelle ossa, come una cancrena, come la carne putrefatta di un corpo morto, come lo sterco. E in questa situazione morale che ci troviamo tutti quando ascoltiamo per la prima volta il meraviglioso messaggio del Vangelo di Cristo, sia che siamo atei o religiosi, sia che siamo dei malfattori o persone rispettabilissime dalla società. Ecco perché non solo è necessario, ma indispensabile essere convinti da Dio di essere delle persone irrimediabilmente perdute, degne solo della condanna eterna. Senza questo presupposto, nessuno può ritenere che il messaggio della salvezza sia indirizzato a noi. Ascoltiamo, e forse ascoltiamo con interesse, ma l'invito di credere in Cristo, quale Salvatore e Signore, passa da un orecchio ed esce dall'altro. La situazione descritta è un dato di fatto, ma quali possono essere i motivi per cui noi possiamo essere certi di essere perduti se non sperimentiamo la nuova nascita? Una simile risposta potrebbe richiedere molte parole, ma solo due verità sono sufficienti per garantirci che se non poniamo fede nell'opera sostitutoria di Cristo, ognuno di noi merita di essere condannato per l'eternità. Innanzitutto, noi siamo certi, senza ombra di dubbio, di essere perduti perché Dio lo afferma. Questo aspetto viene troppo sottovalutato perché, se la condanna della perdizione venisse da un altro essere, terrestre o angelico non fa differenza, abbiamo tutti i diritti di mettere in dubbio la loro sentenza. Ma poiché il giudizio funesto proviene da Dio stesso, non abbiamo nessun diritto di pensarla diversamente. La parola che Dio ci ha data è inequivocabile. Abbiamo dimostrato precedentemente che, tanto giudei che greci, sono tutti sotto peccato, come sta scritto. Non c'è è alcun giusto, neppure uno. Non ci è alcuno che abbia intendimento, non ci è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili, non ci è alcuno che faccia il bene, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto con le loro lingue, hanno tramato inganni, ci è un veleno di aspidi. Sotto le loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, i loro piedi sono veloci per spandere il sangue. Sulle loro vie ci è rovina e calamità e non hanno conosciuto la via della pace. Non ci è il timore di Dio davanti. Non occorre leggere molto nella parola di Dio per rendersi conto della inesorabile perdizione e condizione dell'uomo che non ha ricevuto lo Spirito Santo. Se i termini tutti e nessuno sono esclusivi, se in questo quadro che rappresenta la situazione nella quale si trova la società questi assoluti vengono usati una decina di volte, allora non vi è dubbio alcuno che nessuno, e proprio nessuno, può avere la minima speranza di entrare in un luogo di gloria e di beatitudine. Proprio perché l'uomo è impotente di salvarsi, Dio ha stabilito un piano per la sua salvezza basato sulla grazia, cioè un dono immeritato. E, come dice la Scrittura, se è per grazia, non è più per opere. Questo aspetto dovrebbe mettere a tacere ogni minimo dubbio sulla capacità dell'uomo di salvarsi con le proprie forze, perché se la nostra razionalità non è convinta sufficientemente, la grazia gli inferisce il colpo finale. Infatti, il piano di grazia stabilito da Dio per salvare l'uomo è la prova irrefutabile della certezza della perdizione. Un'altra ragione che dovrebbe e deve convincere definitivamente l'uomo che è certo della perdizione è la morte di Cristo sulla croce. Sfugge alla maggioranza delle persone che se il Figlio di Dio ha lasciato la gloria per venire sulla terra, non è stato certo per fare le ferie o una passeggiata. L'incarnazione di Dio dovrebbe rivelare all'uomo la grandezza della sua miseria, la certezza della sua perdizione, la situazione tragica nella quale si trova. Nessuno di noi compie un gesto estremo, un sacrificio immane, se non è necessario. Se fosse stato possibile salvare l'uomo in modo diverso dal sacrificio sulla croce, Gesù Cristo lo avrebbe scelto. Proprio perché non era possibile salvare l'uomo diversamente, il Padre non gli fece evitare la maledizione della croce. Che senso aveva il sacrificio di Cristo se l'uomo non fosse stato irrimediabilmente perduto? Se l'uomo avesse avuto qualche possibilità di salvezza, ogni persona di buon senso avrebbe deriso il sacrificio di Cristo. Perché pagare 100 euro per ottenere un favore quando ne bastano 10? Perché vendere la casa per comprarmi un tesoro quando il denaro che posseggo sarebbe sufficiente? Nessuno di noi spreca un qualsiasi tipo di bene. Che dire allora di Dio? Se Dio ha donato suo figlio perché mediante la sua morte potesse riconciliare l'uomo a Dio, ha forse agito insensatamente, sprecando ciò che aveva di più caro? Ma se Dio ha donato suo figlio affinché mediante la sua morte l'uomo potesse avere la vita, allora è implicito che l'uomo non ha nessuna possibilità di salvezza. La morte di Cristo testimonia più di ogni altra cosa che l'uomo è irrimediabilmente perduto. Perciò la certezza che noi siamo una razza perduta non ci viene dalla nostra corruzione, perché possiamo sempre sperare di non essere alla fine poi tanto corrotti, ma dal fatto che Gesù Cristo ha dovuto morire in croce per riconciliare l'uomo a Dio. Proprio perché questo è il messaggio che Dio rivolge all'umanità, subentra in seguito la richiesta della fede da parte del Creatore. L'incredulità, cioè quell'atteggiamento del cuore e della mente che rifiuta una testimonianza, è sempre la fede nell'uomo in se stesso. È vero che il peccato prende svariate forme, ma fondamentalmente consiste nel rifiuto di sottomettersi alle leggi o regole di Dio, per seguire deliberatamente la propria logica. Dio invita l'uomo a credere che il sacrificio di Cristo testimoni la sua certezza di perdizione, per credere anche che se pone fede nel suo figlio ottiene ora la vita eterna. Questo è l'eterno messaggio del Vangelo che da millenni viene predicato, perché anche se è vero che viviamo con tanti dubbi e molte incertezze, una cosa è sicura: se non siamo diventati una nuova creatura per mezzo della fede in Cristo Gesù, abbiamo ora la certezza di essere eternamente perduti. Gennaio 2005. Ellero.